Serve molta responsabilità da parte di tutti, serve concentrazione anche da parte dei media sul tema della crisi, che è il grande tema. Abbiamo anche cercato insieme al sindacato di dire cerchiamo di far prevalere in questo momento quello che ci unisce, non quello che ci divide, perché abbiamo bisogno di mostrare responsabilità davanti ai lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, gli imprenditori in difficoltà, quindi cercheremo di capire se con la CGIL c'è la possibilità, come dire, di un riavvicinamento.